Presentazione de La Palude del Diavolo di George Sand. La capacità di George Sand al secolo Amandine Aurore Dupin di introdurre nei suoi romanzi una spiccata caratteristica magica pagana che ci parla di connessione con la natura e con gli spiriti protettori e protettrici dei luoghi, di medicina naturale, di conoscenza delle erbe e dell'istinto delle donne di ogni età di servirsene. È ciò che ci piace tanto di lei. Le protagoniste dei romanzi di Aurore, George Sand, sono tutte potenziali sciamane. Sono donne indipendenti e forti che non si piegano e che riescono a sottrarsi alla brutalità maschile anche se giovani e indifese. E che riescono ad essere in primo piano, anche se ufficialmente il protagonista è un uomo. Come in questo La Palude del Diavolo, scritto quando aveva 42 anni, maturo e consapevole di un riscatto femminino che lei aveva messo in chiaro fin dai suoi primi scritti che, come Lelia, le erano costati il giudizio in tribunale. Abbiamo letto molto di questa venerabile antenata che non smette mai di affascinarci per il coraggio che ha di riscattare le donne, anche le guaritrici di paese, le zingare, le giovinette di campagna. Ovvero quelle figure femminili che nei romanzi dei suoi contemporanei finiscono regolarmente male, travolte dal destino avverso e dai pregiudizi del popolo. Lei, invece, le fa brillare, restituendo loro il potere ancestrale delle comunità matrifocali neolitiche. Nonostante abbia scelto di firmarsi con un nome maschile come altre sue contemporanee per poter aspirare ad essere letta, Aurore non si nasconde certo. Per tutta la vita milita in favore dei diritti delle donne e del popolo. Diviene un'icona e una voce autorevole, seguita e invocata nelle rivoluzioni. Per conoscere la sua vita rimandiamo alla sua stessa biografia da me letta tempo fa e di cui lascio il link in descrizione. La Scuola delle Donne è lieta di proporre di George Sand La Palude del Diavolo, Alberto Peruzzo editore, traduzione di Manuela Gatti. Legge Giorgia, figlia di Lidia. Da Devana, buon ascolto.